La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpura, eccoci all'ora settimanale di cinema qui su Radio 24, un saluto da Franco D'Assisi. Abbiamo una settimana che vuol dire Cannes per quanto riguarda il cinema, perché è cominciato da qualche giorno il Festival della Croisette, tra l'altro con una buona prestazione del primo film italiano in concorso, ovvero Habemus Papam di Anni Moretti, che è stato accolto da un lungo applauso alla fine della sua proiezione in concorso. È una settimana anche di uscite importanti delle quali parleremo dopo aver accennato appunto al Festival di Cannes. È anche una settimana particolare per la Rosa Purpura, perché la puntata di oggi, di sabato, è la puntata classica, diciamo, quella appunto sull'attualità cinematografica in sala, ma domani invece, ve lo dico sin d'ora, siete invitati tutti al Salone del Libro di Torino, dove trasmetteremo una puntata speciale alle 15, tutta dedicata al rapporto tra il libro e il film, e quindi soprattutto al mestiere dello sceneggiatore, dell'adattatore, di colui che da un libro estrae proprio, diciamo, gli elementi, gli ingredienti che servono poi a fare un buon film. Ne parleremo con grandi ospiti, da Cito Maselli a Emidio Greco, grandi registi ma anche grandi tecnici che proprio lavorano sul rapporto fra queste due arti. E noi cominciamo subito, come sempre, per l'inizio della trasmissione, a ricordarvi i contenuti particolari di questa puntata nei titoli di testa. Giulia e Sara, gemelle e gravemente malate agli occhi, ma proprio quando la patologia migliora, Sara si uccide. Dietro la sua morte si cela un misterioso fantasma, con gli occhi dell'assassino. È il nuovo horror prodotto da Guillermo del Toro. Cast stellare e gran divertimento per Red, action movie che mette fianco a fianco Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich ed Helen Mirren, nei panni di un manipolo di agenti della CIA in pensione, ma ancora molto determinati. Lewis è un giovane insegnante di letteratura all'Università di Princeton con problemi di timidezza nei confronti del gentil sesso, ma troverà nell'anziano coinquilino Henry un mentore e tanto divertimento. È la storia di Un perfetto gentiluomo, la nuova commedia con il premio Oscar Kevin Kline e Katie Holmes. Tre fratelli e un unico destino, quello di lottare per la liberazione dell'Algeria dall'occupazione francese. È la storia di Uomini senza legge, film algerino, candidato ai premi Oscar come miglior film straniero. Oh, bene, allora questi i titoli dedicati appunto alle nuove uscite in sala, ma partiamo subito con Cannes, perché è un festival che ha parlato italiano sin dall'inizio, visto che nella serata inaugurale, insieme alla proiezione del nuovo film di Woody Allen, Midnight in Paris, c'era la premiazione a Bernardo Bertolucci, la Palma d'Oro al maestro Emiliano, che è stato davvero commosso e divertito anche di questo premio sul palco del Grand Théâtre Lumière di Cannes. Sentiamo subito un passaggio del momento in cui Gilles Jacob, il patron del Festival di Cannes, consegna la Palma d'Oro alla carriera a Bertolucci. È un frammento del suo discorso, in francese ma molto comprensibile. Nous célébrons aujourd'hui une œuvre magistrale et cohérente. Une œuvre qui fait notre bonheur de spectateur en même temps qu'elle laisse une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. Bernardo. Habemus Palmam. Je crois que j'ai ouvert les yeux sur le cinéma à Cannes en 1964, à la semaine de la critique avec mon deuxième film, Prima della Rivoluzione. J'ai ouvert les yeux dans le sens que je me suis trouvé dans un festival que j'aurais retrouvé encore quelques années après avec Novecento, et puis avec la tragédie d'un homme ridicule, Outognassi a eu le prix pour le meilleur acteur et prix pour Beauté volée. Eh bien, j'ai attendu un peu, mais voilà, je vais avoir ma palme d'or, ce qui, je ne peux pas dire que je l'attendais, mais la surprise la rend encore plus importante. Avete sentito Bernardo Bertolucci quindi ringraziare, dopo che Gilles Jacopo aveva parlato di un'opera magistrale coerente che veniva premiata con questa Palma d'Oro, ricordare, dicevo, Bertolucci, il suo percorso a Cannes, dai primi film, dalle prime partecipazioni, da Prima della Rivoluzione, poi via via, fino ad arrivare ai giorni nostri, un rapporto di grande amore quello che c'è stato con Bernardo Bertolucci, che poi ha voluto mandare una dedica per il suo premio abbastanza particolare. Sentiamo. Bon, je voudrais dédier cet grand honneur à Woody Allen, que je vois dans sa chaise avec une étrange expression que je n'ai jamais vue dans ce film, et à Bob De Niro, qui est aussi un grand, grand ami, et après à tous les Italiens qui ont encore la force et l'énergie de lutter, de critiquer, de s'indigner. Merci. E questo è il passaggio, appunto, se volete, più forte di Bernardo Bertolucci, che dopo aver dedicato la palma a Woody Allen, che era in sala con una espressione, ha detto che non ho mai visto sui suoi occhi nei suoi film, e la gente ha un po' riso, al Lumière, a Robert De Niro, presidente della giuria, e poi agli italiani che hanno ancora la forza e il coraggio di criticare, di indignarsi. Questa è stata la esatta dedica, appunto, di Bernardo Bertolucci. Boris Sollazzo, ci sei da Cannes? Ci sono, sono proprio sopra la casetta. Allora rimanici, perché fra poco, dopo la viabilità, veniamo da te. E allora eccoci subito insieme, Boris Sollazzo dalla Croisette, da Cannes. Boris, abbiamo parlato prima sentendo e dedicando, anche aprendo questa puntata, alla Palma d'Oro, alla carriera per il grande Bernardo Bertolucci, dicevo, un regista molto amato in Francia e molto amato a Cannes, così come un altro regista. Ti ricorda qualcuno che magari ieri si è preso 10 minuti di applausi per Abemus Papam? E si è commosso, anche se lui non amerà che lo raccontiamo. Abbiamo visto anche un Nanni Moretti con un'espressione che nei suoi film non abbiamo mai visto. Contrita, tratteneva le lacrime a stento, e devo dire che sono stati proprio di marca tricolore i momenti più emozionanti. Hai fatto benissimo ad aprire con Bernardo Bertolucci, perché la Palma d'Oro alla carriera di Bernardo Bertolucci è stato sicuramente il momento più emozionante di questi primi 4 giorni di Cannes. Anche la sua dichiarazione è molto forte, insomma la Francia ha tributato gli applausi più sentiti, la platea del Grand Théâtre Lumière ha tributato questa ovazione a due grandi registi italiani. Abemus Papam è piaciuto molto, c'è stata solo la recensione negativa di Variety, ma francamente anche la critica internazionale ne parla benissimo, e già qui si vocifera di un piccolì che potrebbe arrivare alla Palma d'Oro di miglior attore. Quindi insomma un buon successo per l'Italia, nonostante la scarsa presenza quantitativa, insomma pochi ma buoni. Tra l'altro Piccoli, che in conferenza stampa ha detto: potrebbe essere anche il mio ultimo film e sarebbe bello chiudere con Nanni Moretti, insomma anche questo mi sembra un tributo importante. Inizio di festival, italiani a parte, che è vissuto, per quanto riguarda il glamour, diciamo così, cinematografico e non cinematografico, tra Woody Allen e I Pirati dei Caraibi. In mezzo, per il momento, brevemente, Boris, che cosa c'è stato da segnalare? In mezzo ci tengo a citare due registi che sono estremamente amati qui a Cannes, Gus Van Sant e Kim Ki-duk, tutti e due relegati nella serie B del concorso, il Certain Regard, anche se siamo forse poco generosi verso una delle sezioni migliori degli ultimi anni. E Gus Van Sant ha commosso tutti con il suo film Restless, una storia molto simile a quella di Love Story, un Romeo e Giulietta moderno tra un ragazzo orfano di genitori e una malata terminale di cancro, tutte e due sedicenni, davvero molto commovente, abbiamo tutti trattenuto le lacrime. E per quanto riguarda Kim Ki-duk, ha stupito tutto con Arirang, un'autobiografia dei suoi ultimi 3 anni. Da 3 anni il regista, che aveva fatto 15 film in 12 anni, non aveva più fatto film. Ce lo ha spiegato in questo film, in cui praticamente mette la telecamera, la macchina da presa, davanti a se stesso, e con un film psicanalistico e forse psicotico ci racconta tutto quello che gli è passato per la mente, una depressione che lo ha cambiato completamente cinematograficamente, fisicamente è ingrassato tantissimo ed è apparso qui nudo completamente, come dire, devastato da questo momento molto difficile che è passato in questi 3 anni, nato, come dice lui, da un incidente sul set di Dream in cui la protagonista ha rischiato di morire. Là ha cominciato a farsi delle domande sul cinema e sulla vita, e qui ce l'ha raccontato. Il film forse è discutibile, ma è un documento di cinema molto molto importante. Sono sicuramente le due cose più importanti che abbiamo visto in questi 4 giorni. Ecco Boris, siccome però tu sei a Cannes, ma noi ti sfruttiamo, come si dice in gergo, come il maiale fino alla fine, allora, e tu hai visto come sempre la solita orgia di film prima di partire per la Croisette e vedertene tipo una quarantina in 10 giorni, allora noi volevamo parlare anche con te di un paio di film che sono usciti in sala in questo fine settimana, partendo da questo film Un perfetto gentiluomo, di Extra Man, il suo titolo originale, di cui vorrei cominciare a sentire un attimo una clip. Allora mi dica, Louis Ives, perché si trasferisce a New York? Sono alla ricerca di me stesso. Non troverà se stesso a New York? Se dovessi trasferirmi io andrei in Russia, molto meno costoso. Beh, ho insegnato per diversi anni, quindi per quanto riguarda l'affitto ho risparmiato abbastanza lavorando a Princeton. Dove... Princeton? Com'è Princeton di questi tempi? Era fantastico una volta, ma poi hanno ammesso le donne. Oh, intende dire l'università? È ancora ottima. E perché le donne non dovrebbero andare al college? Sono contrario all'istruzione femminile. Offusca i sensi e inibisce le loro prestazioni nel boudoir. Le donne che preferisco sono le cassidiche. Loro sono fantastiche. Che cosa insegnava? Letteratura inglese. Siamo colleghi. E allora avete sentito già il rapporto mentore-pupillo, ma anche collega-collega in questo divertente dialogo tratto dal film, che ha per protagonista un Kevin Kline. Ecco Boris, i due motivi per cui questo film mi attira molto, anche se non l'ho ancora visto, per questo ne parliamo anche con te, sono la presenza di Kevin Kline, che è un ripescaggio importante a mio modo di vedere nell'ambito degli attori un po' sperduti degli ultimi tempi del cinema americano, e l'altro è la copresenza alla regia di Robert Pulcini, che ci aveva regalato uno dei film più brillanti degli ultimi anni, che era American Splendor. C'è dell'altro? Cioè, funziona l'alchimia? C'è poco altro, devo essere sincero. Sono d'accordo con te sul fatto del recupero di Kline, che tra l'altro come insegnante con qualche dubbio sulla propria identità sessuale non è la prima volta che finisce al cinema, e c'è Pulcini che è bravissimo a raccontare, lo ha fatto in American Splendor, nel meno felice diario di una tata, il dramma borghese di molti che non riescono a trovare un'identità sociale, sessuale, personale nella vita. È un film anche brillante, elegante, come quelli di Pulcini sono, che a volte però vive di un vuoto pneumatico, cioè c'è troppo poco in questo balletto in cui tutti sembrano attenti agli esercizi di stile e poco al contenuto. È un difetto che c'è nei film spesso in cui c'è Kevin Kline e che c'è nei film di Pulcini, però a suo modo ha un interesse. Credo che per tutti coloro che hanno un interesse più alla forma che al contenuto, il film può essere gradevole. Per gli altri forse sentiranno che manca qualcosa. Allora Boris, rimani un attimo lì, perché adesso cominciamo a giocare come da tradizione della Rosa Purpurea con il nostro DVD game o Blu-ray game, a seconda che si giochi meno con l'alta definizione, e cominciamo a seminare la prima delle 3 tracce di un film misterioso che i nostri ascoltatori come sempre devono indovinare e di cui devono darci pronto titolo all'indirizzo La Rosa Purpurea @radio24.it. Cominciamo. Mio marito si è rivolto a tutti, senza successo. Temo stia perdendo ogni speranza. Non si è rivolto a me. Molto sicuro di voi stesso? Sono molto sicuro di chiunque voglia essere curato. La Rosa Purpurea @radio24.it, questo è l'indirizzo. Mi raccomando, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci anche il vostro indirizzo, e questo agevolerà le spedizioni del nostro potente centralino per i Blu-ray di questo film. Ovviamente qui non è che ci sia così tutta questa pigna di Blu-ray, ce n'è uno per il più bravo, anzi facciamo oggi 2 per i più bravi del sabato, perché la domenica siamo in onda dal Salone del Libro, quindi siamo con la puntata speciale, quindi oggi ci roviniamo 2 Blu-ray in palio direttamente nella puntata del sabato. sabato della puntata appunto odierna. Rimane con noi Boris Sollazzo perché abbiamo ancora qualche minuto per parlare di un altro film che esce in sala in questo fine settimana. È un thriller con verature horror, si intitola Con gli occhi dell'assassino. In realtà il titolo originale era Gli occhi di Giulia, in spagnolo. Alla produzione c'è un marchio di fabbrica ormai, se vogliamo, di questo genere, che è Guillermo del Toro. Alla regia c'è Guillermo Morales. Boris, sentiamo subito una clip e poi parliamo brevemente di questo film. Lo so che sei là. Quelli della scientifica sono certi che Sara si sia suicidata la notte scorsa. Mi hanno detto che soffriva di una malattia degenerativa. Una perdita progressiva della vista, come mia moglie. Forse non era sola, forse c'era qualcuno con lei. Mia sorella è venuta qui con un uomo. Un fantasma, un'assenza. Lo sai che c'è qualcuno che osserva ogni nostra mossa? Giulia. Maledizione. Chi è? Che c'è? Beh, diciamo che il trailer non lascia spazio a interpretazioni, insomma, è un film calato dall'inizio in questa atmosfera appunto horror, due sorelle, un suicidio, o almeno tale sembra, e appunto una storia che mette insieme la malattia e le sue derive interiori, quelle un po' più dell'anima. Boris, una scuola, adesso ci dirai di questo film, ma sicuramente è diventata una scuola, una matrice. Guillermo del Toro da una parte, l'horror di lingua spagnola, che poi venga dal Messico o venga dalla Spagna, poco importa, ma sembra che ormai gli horror li sappiano fare solamente parlando in spagnolo. Sì, assolutamente d'accordo con te, sembra che i film di genere siano solo di marca spagnola ormai, e questo un po' ci può far piacere perché comunque è una cinematografia sempre molto viva e vivace. Dall'altra parte però ricordiamo sempre che ci manca un po' in Italia questo aspetto del cinema che se non abbiamo inventato comunque abbiamo ben curato e che poi abbiamo dimenticato. Con gli occhi dell'assassino vede come elemento positivo, a mio parere, solo la presenza di Belén Rueda, che tiene sulle sue spalle tutto il film. Un film che però ha piedi d'argilla, perché è difficilissimo, l'horror più difficile da fare, direi anche il thriller più difficile da fare, perché qui di horror c'è poco, se non l'atmosfera, c'è molto più thriller, è quello in cui non si può vedere nulla, non, e in questo caso è evidente perché c'è una malattia degenerativa degli occhi che impedisce alla protagonista di vedere, e bisogna essere davvero bravi registicamente anche come scrittura per renderlo. Per una buona metà questa tensione rimane alta, poi forse anche complice una durata eccessiva il film cala proprio nel momento in cui invece dovrebbe sferrare l'attacco finale. E quindi purtroppo devo dire che è stato deludente, diciamo che il film chiude gli occhi quando invece dovrebbe farceli aprire. Boris, grazie, ti riconsegniamo alla Croisette, al Festival di Cannes, per ritrovarti ovviamente la prossima settimana a raccontarci un po'. Saremo veramente a fil di sirena, a fil di palma potremmo dire, in onda, e quindi sarà il momento poi di tirare le conclusioni di questo Festival di Cannes. Incrociamo le dita, a presto, ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori. E grazie allora a Boris Sollazzo. Noi, prima di dare la linea alla regia, diamo un'occhiata a cosa è successo al botteghino la scorsa settimana, perché dopo una serie di settimane, di weekend nei quali il cinema italiano aveva dominato almeno le primissime posizioni della classifica, c'è dopo tanto tempo appunto un film americano, e questo è, se volete, un po' una notizia di questi tempi, a primeggiare, tra l'altro con incassi veramente poderosi, Fast and Furious 5, ovviamente donne motori, come dire, non si sbaglia mai, porta a casa quasi 5 milioni dalla sua uscita, che è stata anticipata di un paio di giorni, 3 milioni e mezzo nel weekend. Qui non conta più il film, qui conta la saga, conta un marchio, un brand che la gente, evidentemente un certo tipo di pubblico, va a vedere. quasi a scatola chiusa. Secondo posto per Thor, che è arrivato quasi a 6 milioni dall'inizio e 1 milione nello scorso weekend. Terzo posto è Partenza Loffia, davvero, per Come l'acqua per gli elefanti, il Colossal con Robert Pattinson, e Reese Witherspoon, che appunto doveva strafare, invece ha portato a casa 379.000 euro. Sono quasi gli stessi soldi di Machete, che è al quarto posto, di Robert Rodriguez, ma che valgono molto di più, perché è un film assolutamente di nicchia, insomma, con ambizioni popolari molto molto meno pronunciate, che è un film sicuramente molto riuscito. Voglio segnalare però il terzetto italiano, perché se il nono posto Gli faccio un salto alla Havana suona un po' come un po' un calo definitivo dell'attenzione del pubblico per questo film, se l'esordio di Senza arte ne parte di Giovanni Albanese con 178.000 euro è davvero davvero mal riuscito, Nanni Moretti al settimo posto con 200.000 euro nel weekend scorso, ma con 4.800.000 nel totale, e con un Festival di Cannes che lo ha sicuramente rilanciato in questo weekend, per cui sicuramente la pellicola trarrà giovamento dal passaggio a Cannes, potrebbe rilanciarsi al di là di superare i 5 milioni, che mi sembra ormai cosa fatta, provare a risalire anche posizioni in classifica. Quindi stiamo attenti a questo, e settimana prossima vi aggiorniamo su come è andata a finire. Linea alla regia, fra poco torniamo insieme, abbiamo ancora due film di cui parlare, e cominceremo con un film con un cast davvero stellare che si intitola Red. La rosa purpurea. Lei mi sta prendendo in giro. Frank Moses era uno dei più efficienti agenti segreti che abbiamo mai avuto. Ha sistemato signori della droga, terroristi. Cazzo! Ha rovesciato governi! Già, era proprio dotato. Perché l'hanno pensionato? Era vecchio. Sono arrivati dei poffanti e l'hanno catalogato Red. Red? Sì, Red, R-E-D. Reduce estremamente distruttivo. Non ne fanno più di agenti come lui. Grazie. Eh già, di agenti segreti come il vecchio Frank Moses non ce ne sono più, e forse è proprio per questo che la CIA, dopo averlo messo in panchina e derubricato, lo vuole eliminare. Questo è Red, questa è La Rosa Purpurea, Radio 24, la nostra ora di cinema che ci sposta su un altro dei film, delle novità al cinema di questo fine settimana. Sicuramente la più altisonante per quanto riguarda il cast, che è davvero stellare, da Bruce Willis a John Malkovich a Helen Mirren a Morgan Freeman. Un vero dream team per questa storia di spie vecchie, un po' gli spietati delle spie, potremmo dire, in un certo senso. Dicevamo, la CIA vuole eliminare Frank Moses, troppi segreti che Frank conosce e che sarebbe meglio seppellire six feet under, come si suol dire, no? Nel frattempo Frank, che è il volto di Bruce Willis, intrattiene una relazione telefonica con una impiegata di una compagnia assicurativa, una relazione platonica, la chiama ogni tanto con una scusa solo per sentirla, è innamorato Frank e corrisposto, ma appena viene al sodo e si presenta in carne e ossa alla ragazza, Mary Louise Parker, capisce che è il momento di darsi alla fuga. Braccato, in pericolo, Frank Moses parte alla ricerca dei suoi ex colleghi, tutti red, reduci estremamente distruttivi, tutti offside come lui, un po' svitati, come il Marvin di uno straordinario, ma lo è sempre in fondo, John Malkovich, o improbabili come la Lady Victoria di Helen Mirren, ma tutti ancora maledettamente capaci di cavarsi dentro e fuori dai pasticci. Radunata la vecchia squadra, è il momento di girare la canna della pistola dall'altra parte e iniziale un'autodifesa dai cattivi, che suona un po' come una vendetta. Alla base c'è un graphic novel, una breve storia a fumetti, come sempre più spesso capita nel cinema contemporaneo, e in effetti la cosa più riuscita del film è la costruzione dei personaggi, dal protagonista, che prende spunto e movenze dal Bruce Willis di Pulp Fiction, allo stralunato e strafatto ossessivo killer John Malkovich, alla signora in nero Helen Mirren, che fa l'agente in pensione con la stessa eleganza con cui impersonò The Queen Elizabeth. Red è un film che ci dimostra, ove ce ne fosse bisogno, quanto pesano gli attori in un film. Ce lo conferma anche Bruce Willis. It was really incredible for the actors to do it and to get, because you hardly ever get to work with. È stato davvero incredibile lavorare a questo film. Non accade spesso di poter lavorare con un intero cast di attori che ami e con i quali c'è una profonda stima reciproca. Quando le persone vedranno il film e cominceranno a parlarne, questo verrà fuori e inizierà il passaparola, come per tutti i film. Non sarà una pellicola che passerà inosservata. E la cosa che più colpirà il pubblico è che ogni 5-10 minuti entra in scena una star del cinema come membro della squadra. Tutti i protagonisti del film sono stati allontanati dalla CIA per un motivo diverso e si ritrovano a lavorare insieme e a rivivere un passato di cui sentono la mancanza. Non gli manca tanto uccidere le persone, perché non erano criminali, lavoravano per il governo, quanto il lavoro in sé, le emozioni che dava loro. Questo Bruce Willis, appunto, nella supercast di Red. Non fosse per loro, questo film sarebbe solo l'ennesimo action movie. Per loro, per gli attori. Pieno di sparatorie, inseguimenti, anche un po' slegati in alcuni momenti. Una sforbiciata non gli avrebbe fatto male, vedi la lunghissima scena della cena di gala. Ma sfidando il limite dell'inverosimile, i fratelli Hober, che lo hanno sceneggiato, hanno immerso gli ingredienti principi del genere in una soluzione di ironia e cinismo. E il tutto esalta questi personaggi scritti a dovere. Persino la sciacquettina di Mary Louise Parker, la ragazzina di cui Frank si innamora per il suo candore e che diventa la sua palla al piede, ma che vuole sempre andare in prima linea col suo romanzetto rosa tra le mani, beh, ha tante di quelle contraddizioni da divenire immediatamente simpatica. E questo era Red al cinema, il film forse con le maggiori ambizioni di classifica della settimana. Siamo alla seconda traccia misteriosa del DVD Game di oggi, ascoltiamo. Tutti conoscete i motivi che mi hanno spinto a rinunciare al trono. Ma voi dovete credermi quando vi dico che ho trovato impossibile reggere il pesante fardello delle responsabilità senza l'aiuto e il supporto della donna che amo. Se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E adesso siamo all'ultima proposta fra quelle che abbiamo scelto per questo fine settimana. Ci spostiamo in un'atmosfera algerina, perché il film è Uomini senza legge di Rachid Bouchareb, presentato allo scorso Festival di Cannes, che finalmente dopo un anno e dopo essere stato il film candidato dalla Francia agli Oscar per il miglior film straniero, arriva finalmente, appunto, dicevo, nelle sale italiane. Ascoltiamo. Papà! Il Caïd! Che c'è, Mesoud? Sta arrivando il Caïd! Dov'è? Oddio, e adesso che è successo? Said, resta qui vicino a me. Salve. Salve. Ho un ordine del tribunale. Questa terra è di proprietà del tuo vicino, il signor Guerini. Signor Caïd, questa terra era di mio padre e dei miei avi. Hai l'atto di proprietà? Quale atto? Non abbiamo mai avuto un documento. Senza atto non posso fare niente per te. Te ne devi andare. È impossibile, signor Caïd. Io sono nato qui. Mio padre è nato qui. Mio nonno, i miei avi sono nati qui. Anche i miei figli sono nati qui. Hai 3 giorni per andartene. Se dobbiamo partire, con che cosa manterrò la mia famiglia? È la legge e non posso farci niente. Nel Novecento algerino la colonizzazione francese rappresenta una ferita in parte ancora aperta, anche perché, come abbiamo sentito dalla clip, le autorità algerine servire alla Francia non ci andavano troppo per il sottile. Arrivavano nel mezzo del deserto, davanti alle povere case dei contadini, e notificavano lo sfratto. La terra dove quelle persone erano nate, dove avevano le loro radici, non era più cosa loro, ma di un signorotto francese che aveva cultura ed avvocati per strappargliele. A questo il regista algerino Rachid Bouchareb fa risalire la rabbia e la ribellione di un popolo in Hors-la-Loi, Uomini senza legge, nel titolo italiano, presentato, come dicevamo, lo scorso anno a Cannes e ora in uscita nei nostri cinema. Un vero e proprio colossale epico che racconta la storia di 3 fratelli che, dopo l'allontanamento del padre dalla loro terra, dividono le loro strade in Francia, Indocina e nella capitale Algeri, per poi riunirle nelle baraccopoli ai margini di Parigi, dove, sempre più al di là che al di qua di una legge che non riconoscono, fondano il Fronte di Liberazione Nazionale, organizzazione che, a suon di attentati e omicidi, chiede la fine dell'oppressione e il ritiro della Francia dal paese del Maghreb. Mamma ha ragione. Se sei un bandito, nessuno ti rispetta. Un bandito? Quale bandito? Io un bandito? Senti, in questo paese o hai i soldi o non vali niente. Bandito. Io sono libero. Solo quando lo sarà il nostro paese. Dobbiamo diventare degli uomini liberi. Tutto deve cambiare. Tutto deve cambiare? E per chi? Vuoi cambiare le cose con quegli operai? Ascolta, oggi siamo in 3. Domani raduneremo tutta la bidonville. La nostra causa è giusta. Rashid Bouchareb è un regista rigoroso e intenso, per niente versato all'ironia e alla leggerezza. Lo aveva dimostrato nel toccante London River, in cui faceva incontrare un padre musulmano e una madre cristiana, genitori di vittime dei sanguinosi attentati al metro di Londra. Ma in questo film, Uomini senza legge, c'è un respiro epico, un'epopea che lo avvicina per certi versi, e fatte le debite proporzioni, al cinema di Sergio Leone. Il successo del film parte dalla grandezza degli attori. Jamel Debbouze, con quella faccia da bambino già vista nel mondo di Amélie, è il fratello che si occupa meno della guerra e della politica. Lui rappresenta la voglia di sfondare, di uscire dalla povertà, anche attraverso scorciatoie come lo sfruttamento della prostituzione e il giro dei locali e della box di Pigalle. Sami Bouajila è Abdelkader, la mente politica del terzetto, intransigente fino a mettere a rischio anche la vita dei suoi fratelli stessi. Rappresenta la caparbietà della lotta algerina contro la Francia, portata alle estreme conseguenze. Infine, Rochdi Zem è Massoud, il soldato che ha servito per la Francia in Indocina, ma una volta tornato a casa sposa la causa della lotta dura di Abdelkader, pur fra mille rimorsi per una vita tranquilla che poteva avere e che ha messo a repentaglio. Enormi le polemiche che il film ha suscitato in patria e sulle quali Bouchareb si esprime così. Alors je savais que le passé colonial et l'histoire de France. Beh, io conoscevo già il passato coloniale e la storia della Francia e sapevo che le relazioni tra Francia e l'Algeria sono rimaste tese. Quindi queste sono cose che già sapevo, ma non pensavo che si potesse scatenare tutto questo fermento e questa violenza attorno al film. Penso sia un po' esagerato che, senza nemmeno aver visto il film, si dicano certe cose su di esso. Mi sembra davvero una cosa piuttosto triste e penosa, perché il mio film non è stato fatto per provocare, ma anzi, al contrario, è stato pensato per aprire un dibattito, perché tutti alla fine possano esprimere un giudizio sul film e magari poter permettere che anche i rapporti tra la Francia e l'Algeria possano diventare più distesi e sereni. Ci sono alcune ragioni che mi fanno credere che le generazioni successive siano ancora ereditarie di questo passato. Allora il film permette oggi, e questa non è la mia volontà, ma le cose sono andate così, di aprire il dibattito e il confronto in serenità e dà la possibilità a tutti di esprimersi, sia dalla parte algerina che da quella francese. E spero davvero che il passato coloniale della Francia possa essere superato. Ecco. Puisse être débattu pour aller vers autre chose. Voilà. Era Rashid Bouchareb che parlava così appunto di Uomini senza legge nei cinema italiani. Ed eccoci ancora qui, Rosa Purpurea, quarta parte, come sempre dedicata alle visioni domestiche, quindi ai film che possiamo vedere o rivedere in casa nostra tra apparecchi di registrazione e digitale terrestre. Come sempre, prima navigata all'interno dei palinsesti della prossima settimana per scoprire cosa c'è. Abbiamo parlato di cinema di genere prima con il thriller spagnolo Con gli occhi dell'assassino, lamentando l'assenza dal settore di un cinema italiano che invece negli anni ruggenti, soprattutto negli anni 70, era stato quasi maestro, quasi capostipite dei generi, e quindi del western per esempio, piuttosto che del thriller o del cosiddetto poliziottesco. Ebbene, proprio da queste parti ci siamo portati con Claudio Bartolini di Film TV. Ciao Claudio. Ciao Franco e ben ritrovati con le segnalazioni cine televisive di Film TV. Questa settimana proponiamo una giusta razione di esplosivo cinema di genere nostrano, iniziando con lunedì, quindi ci riferiamo ovviamente a lunedì 16 maggio, con un film che va in chiaro su Rai 1 alle 2.45 di notte. Si tratta di Milano Odia, la polizia non può sparare, un poliziesco firmato da Umberto Lenzi in stato di grazia, con Thomas Millian e la sceneggiatura di Ernesto Gastaldi. Grande dose di azione, di adrenalina, inseguimenti e anche una crudezza, una ferocia nello stile e nei temi abbastanza insolita comunque per il forte poliziottesco nostrano tanto amato da Quentin Tarantino. E allora Milano Odia, la polizia non può sparare, lunedì 16 maggio, Rai 1, ore 2.45 di notte. L'altra proposta? E proseguiamo con lo spaghetti western, altro genere pienamente saccheggiato dal cinema oltre i confini nazionali. Va in onda martedì 17 maggio su Rete 4 alle 21.10, lo chiamavano Trinità, super cult con Bud Spencer e Terence Hill, cui farà seguito continuavano a chiamarlo Trinità, e si tratta di un genere ibrido, ovvero un genere che prende gli stilemi western tradizionali e li declina in chiave comica. in chiave da commedia, nella quale le scazzottate e le sparatorie sono sempre e comunque finalizzate a non prendersi troppo sul serio. C'è un guizzo vitale da parte del regista Enzo Barboni, che si firma E.B. Clasher, poiché questi prodotti erano principalmente destinati a un mercato estero, e anche nel mercato interno se il regista si firmava sotto uno pseudonimo inglese o americano, veniva scambiato appunto per un inglese o un americano e riscuoteva sicuramente più successo di pubblico. Uno tra i migliori titoli dello spaghetti western che consigliamo vivamente. E allora ricordiamo l'appuntamento, lo chiamavano Trinità, martedì su Rete 4 alle 21:10. Ciao Claudio Bartolini. Per questa settimana è tutto, un saluto a te Franco e agli ascoltatori di Radio 24 dalla redazione di FinTV. Oh, eccoci ancora insieme, siamo alla terza e conclusiva traccia del film sempre meno misterioso di oggi. Ha ricevuto da sua maestà E beh, insomma, se avete indovinato bene, se no veramente vuol dire che non era cosa, perché qui siamo proprio quasi allo svelamento di questo capolavoro. La Rosa Purpura a @radio24.it per dirci di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray appunto di questo film. Come sempre sveleremo l'arcano e i vincitori la prossima settimana, come facciamo adesso invece con le clip e con il gioco della scorsa settimana. Pronto? Si dice pronto. Oh. Pronto? Così? E beh, questa era una chicca, eh? Insomma, il pranto è diventato quasi un modo di dire. Megamind, questo era il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana. Sono stati più bravi e più veloci fra i nostri ascoltatori Roberto Zanoni di Arco di Trento e Francesco Nano di Firenze, che riceveranno a casa il Blu-ray appunto di Megamind, uscita della Universal, tra l'altro uscita corredata da un grande evento, per chi può si informi e ci provi, un grande evento gratuito a Milano, al Cinema Orfeo di Viale Conizugna, domenica 22 maggio alle 10 del mattino, un evento appunto per celebrare l'uscita di questo film in DVD e Blu-ray, con incontri soprattutto per i bambini, laboratori creativi, c'è davvero un po' di tutto. Tutte le informazioni le potete trovare su Facebook, nella pagina di Megamind Italia, e quindi basta digitare su Facebook Megamind Italia e troverete tutto il programma della giornata. Tornate come potersi iscrivere, ripeto, gratuitamente, ma chiaramente con un numero poi chiuso di partecipanti. Per farci dire invece come funziona il Blu-ray e quali sono le sue caratteristiche, siamo in collegamento col nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. L'uscita di Universal è sicuramente interessantissima sia per il DVD ma soprattutto per il Blu-ray, che è da preferirsi per la qualità d'insieme, anche se con lo stesso audio dell'edizione DVD. Ritrovare il divertimento della sala cinema si consiglio sicuramente la traccia Dolby ad alta risoluzione in inglese, ma ci sono tantissimi extra, tra cui la visione immagine nell'immagine con approfondimenti sulla produzione, gli storyboard, ci sono focus e curiosità sul set, c'è un corto inedito, ma soprattutto tanti giochi per i più piccoli, tra cui addirittura un creatore di fumetti interattivo. E beh, insomma, tutto questo con Megamind. Noi abbiamo anche lo spazio, come sempre, come in settimana, per parlarvi di un paio di film che invece arrivano in on video, un paio di recensioni, grande musica, una grande storia umana, appunto, e anche musicale in Ray. Sentiamo. Ray, te lo devo dire. Riteniamo quello che fai molto importante. Nessuno ha mai combinato rhythm and blues e gospel finora. I've Got a Woman è un successo e devi cominciare a pensare a un seguito, amico mio, e subito. Sì, beh, mi sembra giusto. Soltanto in Texas è una cosa da sistemare. Tanto faccio presto. Oh, beh, lo spero. Sono pronto a vendere. Biografia del grandissimo musicista non vedente Ray Charles, dalla nascita ad Albany, in piena depressione, la carriera leggendaria, una vita difficile tra donne, tradimenti, la dipendenza dalla droga, l'egoismo cronico. L'edizione Blu-ray di Universal è notevole e non manca di sorprendere per la qualità d'immagine. C'è una traccia in italiano Dolby Digital identica al DVD, superiore all'originale inglese DTS ad alta risoluzione. Tra gli extra segnalo le scene tagliate, molto interessanti le performance musicali in versione estesa, ma su tutte sicuramente l'introduzione e il commento su tutto il film da parte del regista Taylor Hackford. E questo per quel che concerne Ray. Invece tutt'altro clima, tutt'altra allegria e leggerezza in uno dei campioni d'incasso della stagione d'oro della commedia italiana e del comico italiano. Era il periodo delle feste e usciva nelle nostre sale La banda dei Babbi Natale. Dottoressa, ma lei non mi ha capito, io sono un delinquente vero, io sono colpevole, io sono il capo di questa banda, questi qua li conosco da quando eravamo ragazzini, il Faina, il Cicalone, il Mandrake, viva poco, io sono il capo di questa banda. Ma che cazzo sei? Cioè, li conosco, come chi sono? Io sono Spider-Man da Maiana. Ma leve da buffo. A Milano agisce indisturbata una banda di ladri di appartamenti, la cosiddetta banda dei Babbi Natale, ma proprio la notte della vigilia Aldo, Giovanni e Giacomo, amici di vecchia data, vengono sorpresi dalle forze dell'ordine mentre forse stanno svaligiando un appartamento. Presso il commissariato ognuno racconterà dal proprio punto di vista gli avvenimenti per dimostrare la propria innocenza. La commedia è sicuramente briosa, ricca di momenti esilaranti e ha salutato il grande ritorno del trio al cinema. Da Medusa Film Home Entertainment, l'uscita a un video con il DVD, ma soprattutto il Blu-ray, che offre la visione identica a quella della sala cinema. C'è un'eccellente qualità video e audio addirittura DTS ad alta risoluzione per l'italiano. Per gli extra segnalo su tutti sicuramente le scene tagliate e un interessante making of. Perfetto, grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. A presto, ciao. E allora noi abbiamo finito qui la puntata della Rosa Purpura, vi do appuntamento ancora a domani, ore 15, puntata speciale dal Salone del Libro di Torino per parlare del rapporto fra i libri e il cinema quando una grande storia scritta diventa un grande film, e poi l'appuntamento invece la prossima settimana per tutte le novità del cinema a partire dai Pirati dei Caraibi. Un saluto da Franco D'Assisi.